1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Siamo qui alle 7.18 minuti, cari ascoltatori, in questo momento proprio alle 7.18 e allora siamo pronti a leggere i giornali, a parlare di tante tematiche che sui giornali sono ben presenti, a cominciare dall'Iran. Più tardi avremo ospite l'ex ministro degli esteri Emma Bonino, a tornare a parlare del Family Day avremo ospite Roberto Maroni, il governatore della Lombardia, con tutte le polemiche per il pirellone acceso con le luci, con la scritta Family Day. Insomma, insieme a Oscar Giannino affronteremo con loro, Emma Bonino e Roberto Maroni, queste due tematiche che sui giornali sono ben presenti. Allora andiamo a sfogliarli questi quotidiani. È martedì 26 gennaio, partiamo come sempre dai titoli. Il Sole 24 Ore apre sulla giornata nelle borse. Mercati stop a rally, borse e petrolio in calo, questo è il titolo di prima pagina. Poi la maggior parte dei quotidiani sceglie la questione di Schengen e dell'Europa. Il vertice europeo è vicino al fallimento, è inutile fare tanti giri di parole. E dunque ecco qui che il trattato di Schengen, quello per la libera circolazione di merci e persone, potrebbe essere sospeso. Schengen in bilico per 2 anni, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Per Repubblica, Schengen spacca l'Europa. Per il Secolo XIX, congeliamo Schengen, così la Stampa, congelare Schengen per 2 anni. Il Messaggero, frontiere chiuse per 2 anni. Il Giornale, chiudono le frontiere. Come vedete, i titoli sono più o meno tutti uguali. Il Giorno, confini, il fallimento UE. E poi ci sono solo sulle unioni civili, anche l'unità, niente da dichiarare? La classica frase che per tanti anni abbiamo sentito al confine dalle guardie di frontiera. E poi le unioni civili rispuntano su Avvenire, la famiglia è unica, prima il bene dei figli, queste sono le parole del Cardinal Bagnasco, tanto che il Manifesto lo definisce così, l'angelo custode, è la foto del Cardinal Bagnasco. Due aperture diverse sono per il Fatto Quotidiano, indagini sulle banche, il governo vuole prendersi pure la finanza al posto dello sgradito capolupo, in ballo delle femmine, Toschi e Carta sono le nomine per il Comando Generale della Guardia di Finanza. Mentre per Libero, la supertassa sui voli va tutta in marchette. Schianta Italia, biglietti aumentati solo per finanziare la spesa. I biglietti aerei. Ma voglio partire dall'allarme che ieri ha terremotato letteralmente per qualche minuto, se non mezz'ora, un'ora, gli italiani, la stazione Termini tutta bloccata perché è stato visto una persona con un fucile a tracolla. Ed era vero, aveva un fucile a tracolla. Solo che poi è stato fermato sul treno per Anagni, era un fucile giocattolo con tanto di tappino rosso comprato per il figlio. Fermato sul treno e poi rilasciato, finisce in beffa la caccia all'uomo. Beh, beffa, questo è il titolo del Messaggero, finisce bene, insomma, comunque, perché è un allarme falso. Però ieri, ripeto, attorno alle 8:30 di sera, la vista di questo uomo, fotografato anche armato in stazione, subito scattato il panico tra i passeggeri, tra gli utenti che erano lì, che l'hanno visto, che hanno segnalato tutto alla polizia. Bene, alla fine, come racconta il Messaggero, l'uomo col fucile che ha terrorizzato la stazione Termini pochi minuti dopo aver fatto scattare l'allarme antiterrorismo viaggiava tranquillamente sul treno diretto ad Anagni, in provincia di Frosinone. Il capotreno lo ha visto, con l'arma in mano, ha chiamato il 113, ha chiesto aiuto a un maresciallo dei carabinieri che conosceva bene perché fa il pendolare su quella tratta. Il maresciallo si avvicina allo sconosciuto, gli chiede di mostrargli l'arma, è un giocattolo. L'ho comprato per mio figlio. E il fucile era effettivamente di plastica, aveva anche il tappo rosso. Il capotreno e il maresciallo, che non avevano neppure idea della caccia al terrorista scatenata nella capitale, hanno controllato il biglietto, aveva pure il biglietto, insomma, tutto in regola. E quando il treno si è fermato, lo sconosciuto è sceso e sembra che sia poi salito su un autobus diretto a Fiuggi senza sapere che in quegli istanti lo cercavano tutti. Finisce così in una beffa la caccia all'uomo scambiato per terrorista che ha coinvolto decine di uomini delle forze dell'ordine. Ecco, io dico a questo signore, magari la prossima volta in un bel sacchettino, in una busta, no? Cioè così, giusto perché effettivamente c'è questa foto, anche questo fermo immagine che è stato mandato in giro su internet, e dove si vede chiaramente lui un po' sfocato con un fucile, inequivocabilmente un fucile. Mica adesso siamo tutti esperti a capire da un fotogramma o se uno passa che è un fucile, magari del colore di un fucile vero, se è un fucile finto. Dai, su, visti i tempi. Certo, cari italiani, benvenuti tutti nell'era dell'ISIS. Ben svegliati, anche perché poi le minacce ci sono e ci sono vere, eh? Per esempio Europol, la polizia europea, ha lanciato questo allarme: 5.000 terroristi pronti ad attaccarci. Questo è il titolo che troverete su, giusto per augurarvi un buon martedì, così andate poi tranquilli a lavorare, a fare le vostre cose. 5.000 terroristi pronti ad attaccarci, questo è il titolo della Stampa, per esempio, a pagina 5. Ed è ciò che ha lanciato come allarme l'Europol, tra l'altro con alcuni dettagli inquietanti che Fausto Biloslavo mette in ampio risalto sulla sua pagina del giornale. Cioè, la maggior parte dei terroristi che ci vogliono attaccare sono persone con problemi psichiatrici e precedenti penali. Questo è l'allarme dell'Europol, eh? Tra questi forse ne abbiamo beccato uno, il marocchino Hamil Mehdi, che è stato fermato in Turchia e rispedito in Italia, da dove era partito, da Cosenza, perché molto probabilmente voleva dalla Turchia poi andare in Siria e abbracciare il Jihad, insomma la guerra santa, andare a combattere nelle file dell'ISIS. Giovanni Bianconi e Carlo Macri raccontano la sua storia a pagina 6 del Corriere della Sera. Prima di imbarcarsi da Roma sul volo per Istanbul il 9 luglio, telefonò alla madre dicendo: devo aiutare un signore italiano, torno domani. In realtà salì sull'aereo, arrivò alla polizia, alla frontiera, ma la polizia di frontiera lo fermò. Diceva di voler restare in Turchia 10 giorni, ma aveva solamente un paio di pantaloni tipo militare e un tappetino per la preghiera come bagaglio a mano, un libro dei fratelli musulmani, 2 telefoni cellulari, 800 euro in contanti e un viaggio, un biglietto di sola andata. Insomma, anche un genio, ecco, è stato fortunatamente beccato, rispedito in Italia. Mehdi Hamil, 24 anni, residente a Luzzi, in provincia di Cosenza, era un sospetto foreign fighter, e hanno trovato, con controlli di telefonini, collegamenti a siti internet di propaganda radicale, contatti con persone anche loro considerate estremisti. Ci sono intercettazioni della madre che diceva a un'amica: si isola, non parla con le donne italiane. La mamma era preoccupata dicendo: così non troverà mai un lavoro, non sapendo probabilmente che questo ragazzo, suo figlio, in realtà covava dentro di sé qualcosa di ben più importante per lui rispetto a trovare un lavoro, e cioè un viaggio solo andata in Siria per combattere. È stato però fermato in Turchia e rispedito in Italia. Vabbè, torniamo a un gran classico, i furbetti del cartellino. Oh, pare ne abbiano beccati altri, queste almeno ci sono le immagini, le foto da Pachino, che non è terra solo di straordinari prodotti agricoli e pomodori e di straordinarie cultura della Sicilia, ma è anche un posto, secondo la Stampa e il Messaggero, di assenteisti, almeno così racconta La Finanza, un'inchiesta con tanto di 7 dipendenti del comune siciliano indagati per truffa aggravata ai danni dell'ente pubblico. Sono stati fotografati mentre timbravano e poi andavano a caccia. È la classica foto, la classica come quella che vedete del vigile celebre in mutande. A proposito del vigile in mutande, oggi a lui è dedicata l'amaca di Michele Serra, non solo a lui, al vigile in mutande, ma forse un po' a tutti noi. Ma Michele Serra non è che ne prenda le difese, però scrive così: detto che timbrare il cartellino in mutande non è elegante e ha aggiunto che una bella regolata nel pubblico impiego è molto necessaria e attesa. Forse si sta un po' esagerando col vigile di Sanremo e i suoi slip, eretti a icona criminale, sputtanati e sbeffeggiati ovunque, dai telegiornali ai giornali ai social, ancora ieri l'altro usati come copertina di un talk show televisivo. Si capisce che quell'immagine è efficace, indicativa di un tran tran non proprio da civil servant. Ma se vista una volta suscita disapprovazione e fa scuotere la testa, la seconda non aggiunge nulla, la centesima rischia di far sembrare quel vigile un tordo infilato in uno spiedo esagerato, condannato a una cottura senza fine. Se esistono i diritti dell'imputato, è proprio nei momenti di maggiore impopolarità del medesimo che è importante mantenerli ben saldi. Se quel signore ha disatteso, come pare che sia, i suoi doveri, vada incontro alla sua sorte, il licenziamento, ma gli si risparmi il supplizio supplementare di fungere da simbolo vivente del fancazzismo e della sciatteria, perché una foto è una foto. Poi c'è la vita delle persone a ricordarci che il peso della realtà nel bene e nel male non è riassumibile in un fotogramma. Quindi, insomma, Michele Serra sulla maca, non che difenda il fancazzismo, però insomma dice adesso basta anche questo sputtanamento totale e continuo nei confronti di questa persona. Oh, cari amici, è arrivata la richiesta di risarcimento. Raffaele Sollecito, condannato ingiustamente, così dicono le sentenze, per l'omicidio di Meredith Kercher, chiede allo Stato italiano 516.000 euro per ingiusta detenzione. Lo scrive Alessandro Capponi sul Corriere della Sera, pagina 25. 516.000 euro perché è il massimo che si possa richiedere. Giulia Bongiorno e Luca Maori, che sono i suoi avvocati, hanno fatto questa formulazione di richiesta. Viene riepilogata un po' la vicenda. 516.000 euro la richiesta di Raffaele Sollecito allo Stato italiano. Ma eccoci qui, siamo al momento dell'articolo che mi fa pensare della giornata. L'articolo che, se siete in macchina, vi fa tenere le mani sul volante. È questo, una pagina di Repubblica su una delle società partecipate classiche che dovrebbero scomparire, chi lo sa. Mauro Favale racconta la storia dell'affitto milionario dell'ente romano che doveva cancellare gli sprechi. Cioè, non so se avete capito, è un ente che doveva cancellare gli sprechi e spende solo in affitto un milione l'anno, in sede in Piazzale degli Archivi all'Eur, in un palazzo attualmente di proprietà dell'INEL, dove dal 2008 paga un affitto di un milione e mezzo di euro l'anno. È la società che per conto del Campidoglio si occupa della vendita del patrimonio comunale considerato non funzionale. Capito? Loro devono vendere il patrimonio non funzionale. Nel frattempo, funzionalmente, si spende un affittino da un milione e mezzo l'anno. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che, quando queste cose capitano, dice: sono cose che capitano. Alessandria Milan, la semifinale dell'informazione. Ebbene sì. Tra l'altro, tutti continua la favola, anche il GR continua la favola dell'Alessandria. Ma perché deve continuare? Ma stronchiamola subito, bastonate dure agli amici, amori miei dell'Alessandria, bastonare duro, bastonare pesante. Va bene, le favole sono belle, ma dai, siete grandicelli, basta con queste favole, su, mica avete 6 anni, 10 anni. Questo è il calcio, signore, e quindi che vinca il più forte. Me la sono tirata, se non battiamo l'Alessandria si gioca su 2 partite, sono finito, qui lo dico, finito. Va bene, tagliate pure tutto questo, non verrà, non l'ho mai pronunciato in caso dovesse non andare bene. Allora, Schengen, forse per 2 anni, perché l'accordo non c'è al vertice straordinario dei ministri dell'interno europei. forse per 2 anni ci torneranno le frontiere, o comunque tra sei paesi hanno chiesto, Norvegia, Germania, Francia, Austria, Danimarca e Svezia, hanno già reintrodotto ai confini verifiche di identità temporanee per 6 mesi, pur di arginare l'arrivo di profughi o contrastare minacce terroristiche. I termini cominceranno a scadere in maggio circa, ma successivamente è necessaria una proposta dell'esecutivo comunitario per prorogare e proseguire sulla stessa strada per altri 2 anni. Quindi Schengen in questi 6 paesi potrebbe per 2 anni essere sospeso. E noi che facciamo? Certo, c'è un grande dibattito. I 28 stati di Schengen cercano di salvare l'accordo. Tutti i dettagli sono raccontati da Beda Romano a pagina 6 del Sole 24 Ore. Però questo gruppo di paesi, questi 6 che ho citato, chiedono invece di estendere i controlli. Insomma, Schengen rischia uno stop di 2 anni. Tra l'altro, Fiorenza Sarzanini, a pagina 8 del Corriere della Sera, quindi salto dal Sole al Corriere, in questo retroscena racconta che sono bastati 2 incontri bilaterali per comprendere che il clima non era affatto favorevole, perché nel corso dei colloqui della delegazione italiana con i tedeschi e gli austriaci, tutti hanno mostrato massima disponibilità per non far fallire il trattato di Schengen. Subito dopo però hanno sottolineato necessità di sospenderlo e continuare con i controlli fin quando i numeri dei migranti non si ridurranno in maniera concreta. E così è apparso chiaro che almeno fino a settembre il nostro paese dovrà fare i conti senza la collaborazione dei partner dell'Unione Europea. Almeno fino a settembre il trattato di Schengen sarà quasi certamente sospeso. Anche qui subito sono volate le accuse, soprattutto dei paesi che ne chiedono la sospensione e fino a 2 anni, alla Grecia. La Grecia ancora una volta nel mirino, non per questioni economiche, finanziarie, visto che ha rischiato il fallimento fino a poco fa, ma perché adesso le accuse sono quelle non controllate, i varchi a est. E Ettore Livini infatti racconta a pagina 3 di Repubblica, come inviato a Idomeni nel confine tra Grecia e Macedonia, è il passaggio in questo varco tra Macedonia e Grecia, dove inizia la speranza dei profughi e dove però l'Europa ora chiede in qualche modo più controlli, una cautela, un controllo più stringente. In tutto questo, l'allarme criminalità aumenta, almeno secondo alcuni quotidiani. Per esempio Libero dà ampio risalto a questa notizia, che proviene per la verità dalla Germania, lo fa Andrea Morigi a pagina 7, ed è questa: un immigrato arabo su 2 diventa un delinquente. Questo è il titolo, molto molto forte. Lo dicono i dati della polizia di Düsseldorf, il 40% dei magrebini arrivati a Düsseldorf entro i primi 12 mesi si trasformano in delinquenti. Il dato è abbastanza impressionante. Un'incidenza simile si ritrova soltanto tra i bosniaci e i montenegrini, rilevano le forze dell'ordine, secondo le quali ogni 3 ore e mezza un criminale magrebino colpisce a Düsseldorf. Si tratta di bande sprovviste di qualsiasi rispetto, e a causa della loro aggressività e collocazione nello spazio pubblico influenzano in modo estremamente negativo la sensazione di sicurezza degli abitanti. Questo è ciò che viene messo in pagina da Libero e viene da Düsseldorf dalla polizia, e che quindi insomma inquieta non poco in questo momento di grande immigrazione. A proposito di stati confinanti, è confinante, anche se c'è il mare in mezzo, anche la Libia, dobbiamo considerarlo tale. E lì in Libia la situazione è tutt'altro che pacificata, è tutt'altro che tranquilla, perché il Parlamento di Tobruk, l'assemblea cioè di una delle 2 metà in cui è diviso il paese, ha approvato l'accordo politico dell'ONU, ma ha poi bocciato clamorosamente, racconta Repubblica con Vincenzo Nigro, il governo proposto dal premier. La lista dei ministri era stata proposta dal premier Fayez Sarraj, dopo che il suo nome era stato accettato dai deputati di Tobruk volati in Marocco, ma ora che il governo è pronto, gli stessi deputati di Tobruk hanno rifiutato di approvarlo. Chiedono di presentare un governo più snello, massimo 20 ministri, perché anche in Libia dicono di volere una spending review e maggiore sobrietà. La verità è che Tobruk dà così un vero colpo politico al governo di unità voluto dall'ONU. Quindi una delle due parti del paese, Tobruk, dice no al governo, quel governo che doveva in qualche modo riappacificare, riportare una nuova intesa in Libia. Non un bel destino che si profila all'orizzonte. Come vedete è l'attualità internazionale che tiene banco, perché in tutto questo c'è il presidente della Repubblica Islamica d'Iran, Rouhani, in viaggio diplomatico, ma anche in viaggio d'affari, possiamo dire così, perché gli affari contano, in Italia e in Europa. Ieri era a Roma. È interessante ciò che racconta Celestina Dominelli sul Sole 24 Ore, pagina oggi, il disgelo con Teheran e tutto ciò che comporta dal punto di vista economico e finanziario per l'Italia. Ci sono intese del valore di 16-17 miliardi di euro che rilanciano così la collaborazione tra Roma e Teheran. Ci sono anche l'elenco delle aziende che hanno già firmato dei memorandum d'intesa per andare a lavorare in Iran con le commesse. L'Isotta Freschini Motori, la Saipem, Fincantieri, Telecom Italia Spark, la Saldo Energia, Danieli, Gruppo Messina, Gruppo Pessina, Gavio ed altri, con l'elenco delle commesse e con l'elenco degli affari. Certo, sul Fatto Quotidiano, e poi ne parleremo anche con Emma Bonino, Stefano Feltri, vice direttore, scrive a pagina 4 17 miliardi di ragioni e di euro per ignorare i diritti umani in Iran. E questa è la solita questione quando si tratta di fare affari con paesi che non sono democrazie per come le intendiamo noi. Certo, ci si pone sempre questa questione, fare o no questi affari, chiudere gli occhi, cercare di fare pressioni, ma fino a dove queste pressioni possono poi trovare sfogo in paesi che dicono non dovete poi fare ingerenze nei nostri affari interni. E sta di fatto che la tematica viene rilanciata ogni qualvolta si ha a che fare dal punto di vista commerciale con questi paesi. Questa volta è il caso dell'Iran. Ma è il momento e sono le Meazza in punto? Sì, sono le Meazza in punto e allora il nostro Maurino Meazza, eccolo qua, buongiorno. Caro Alessandria, come stai? Benissimo, benissimo. Ma sento che sei preoccupato addirittura per niente. Questa sfida, ma mi per pare niente. Che non siate ancora nella stessa categoria della vostra squadra sfidante, no? È un po' triste spezzare i sogni, e rompere, distruggere le favole altrui, ma a noi tocca questo crudo compito. Ti sei sbilanciato con una veemenza che faceva pensare che ci fosse in ballo una finale di Champions League, va bene. Comunque, cosa puoi dire? Ti faccio i miei migliori auguri. Ma è ovvio, questo è ovvio. Come io se li faccio per domani. Caro sì, Alessandria, sì. Senti, guarda che oggi è una giornatina importantuccia, non so se si può dire importantuccia, ma per sì. La questione dei crediti deteriorati sì. E la famosa bad bank. No, c'è questo incontro, scherzi a parte, tra il nostro ministro Padoan e la commissaria Vestager. Noi abbiamo... presentiamo la nostra idea per riuscire a uscire da questo imbuto dei crediti deteriorati delle banche sì. Che grava parecchio sull'economia. Vediamo se, come dire, la commissaria sarà convinta, accetterà questo piano. Tutti i particolari in pagina 2 del Sole 24 Ore, dove tra l'altro Isabella Bufacchi ti spiega pure che i crediti deteriorati non sono tutti uguali, perché ci possono essere quattro diverse categorie, ma ti rimando alla pagina 2 del Sole 24 Ore di oggi per saperne di più. Mm-hmm. Ti volevo poi segnalare, ci sono dei dati un po' contraddittori su fatturato e ordinativi dall'Istat, te ne riferisce puntualmente Matteo Meneghello sulle pagine di Impresa e Territori, complessivamente il dato è positivo, però, ci sono stati dei rallentamenti, non è una cosa buona. Però andremo a fare una centrale di energia solare in Cina. Un'azienda italiana costruirà una enorme centrale con una tecnologia assolutamente nuova proprio per i cinesi, poi ne farà una anche in Italia. L'ho letto naturalmente sulle pagine di Impresa e Territori. Sai che oggi ti diamo anche la guida alla riforma della pubblica amministrazione? Sì, come no? nelle pagine, naturalmente, che tu devi leggere religiosamente, quindi di quali pagine sto parlando. Norme e tributi. Oh, bravissimo, perché proprio lì troverai illustrate le novità contenute nella riforma. Ma tanto per capirci, sai che avremo una identità digitale, sì, unica, per parlare con tutte le amministrazioni, e questo dovrebbe avvenire anche in un lasso di tempo abbastanza ristretto come attuazione. Diciamo che visto che la carta d'identità elettronica la aspettiamo da una ventina d'anni, infatti volevo dire la carta d'identità elettronica quello lì ci stiamo lavorando. Questo progetto naturalmente supera la carta d'identità elettronica, mi viene da dire un po' anche meno male, però si chiama SPID, è un sistema appunto di identità digitale unica. SPID, ma non come velocità, neanche come la celebre droga, no, quella lì è scritta appunto con la doppia E, invece questo è scritto con la I. Veramente trovi di tutte da ridire. Ma sei nervoso oggi, che cosa c'è? C'è una partita importante questa sera, che è successo? Ricordati che oggi è martedì, giusto? Il condominio, è chiaro. Bravissimo. Pagina molto interessante, te la segnalo, perché sono diciamo le cose da tenere sotto controllo per l'amministratore, che è sempre una figura, come dire, a cui vogliamo tutti bene, alla quale vogliamo tutti bene, ma che magari bisogna sempre sorvegliare nel suo operato. E ricordati che giovedì, che succede giovedì? È la giornata europea telefisco, telefisco. Non eri preparato. Incontro di stasera che ti sta troppo emozionando. Allora guarda, io ti faccio tanti cari auguri. Caro Alessandria, e ci sentiamo domani. Va bene. Traffico! Alessandro Milan, vous êtes le re della revue de presse. Grande, addirittura in francese dai nostri ascoltatori. Evviva! Allora mandateli se volete via WhatsApp le vostre sigle, i vostri epiteti, i vostri elogi, i vostri insulti. 349-238-6666 è il numero WhatsApp, mandate l'audio. Come ha fatto il nostro caro ascoltatore, l'audio bello che si sente bene. Allora, le unioni civili, è inutile che fate quella faccia, è inutile che storcete la bocca, per questa settimana e anche un po' più in là, mi sa, dovete cuccare un po' sui giornali questo dibattito importante, per alcuni sono molti quelli che dicono dibattito importante, sono direi altrettanti quelli che dicono basta sentirne parlare, perché? Ma non perché non sia importante, credo di interpretare un po' questa idea, è perché in Italia se ne sente parlare, come mi scrive un ascoltatore, se ne parlava quando io andavo al liceo 30 anni fa, se ne discuteva, e dopo 30 anni siamo ancora qui, succede per tante cose in Italia. Comunque, le unioni civili, forse ci siamo, giovedì al Senato la legge, ieri ha parlato il Cardinal Bagnasco, 73 anni, presidente della CEI, quindi la conferenza episcopale, la conferenza dei Vescovi, è il titolo di apertura di Avvenire, che dedica ovviamente ampio spazio all'intervento di Bagnasco. Cosa ha detto Bagnasco, che non ha mai citato né il Family Day né il disegno di legge sulle unioni civili, però ha parlato chiaramente anche di questo. Il vero bene dei figli, ha detto Bagnasco, deve prevalere su ogni altro, perché sono i più deboli ed esposti. I bambini non sono mai un diritto, poiché non sono cose da produrre. Hanno diritto ad ogni precedenza e rispetto, sicurezza e stabilità. Hanno bisogno di un microcosmo completo nei suoi elementi essenziali. I figli hanno diritto a padre e madre, questo è il titolo più gettonato, l'affondo di Bagnasco per il Corriere della Sera. C'è da dire che tutti i giornali dedicano grande risalto alle parole di Bagnasco, come detto Avvenire lo mette in prima pagina come titolo principale, lo fa anche il Manifesto in maniera più critica dal titolo L'angelo custode, i figli non sono un diritto, questa è la frase ripetuta del Cardinal Bagnasco, e viene definito dal Manifesto l'ennesimo affondo su unioni civili. C'è da dire che parla anche la senatrice Cirinnà, due interviste, una all'Unità dice la legge tutela i bambini, i doveri sono dei genitori. E l'altra intervista la fa Repubblica. Alessandra Longo, la intervista a pagina 12, dice Monica Cirinnà: devo dire che riesco a dormire molto poco la notte. La sera mi arrivano messaggi pieni di aspettative. Monica, non mollare. Monica, sei la nostra speranza. Monica, non voglio sposarmi in Inghilterra o in Spagna, ma qui sento un peso enorme, quello della felicità degli altri. Una felicità che io ho già, perché vivo con l'uomo che amo e ho un rapporto molto bello con i suoi 4 figli, con la mia famiglia allargata. Ecco, vorrei che anche gli altri, le persone ora discriminate, possano vivere la loro felicità. E poi parla un po' della sua vita, dice: sono cresciuta con 3 fratelli maschi, di cui uno adottivo e 2 cugini maschi sullo stesso pianerottolo. In casa mia c'è sempre stato un via vai di parenti. E ancora: è vero, ho studiato dalle suore, perché mia madre, cattolicissima, famiglia nobile decaduta, si è resa conto però che una ragazzina, che era una ragazzina anni 70 troppo curiosa della società. Le suore si lamentavano della mia irrequietezza, le avevano detto che facevo letture pornografiche, in realtà leggevo Il male e Lotta continua. Chissà il nostro amico Vincino, come ho detto prima, che ne pensa. Lei comunque mi ha tolto da quella scuola e mi ha sdoganato. Che pensa del Family Day di sabato? Sarà una bella festa, l'importante è che non ci sia rabbia. Così la senatrice Monica Cirinnà. Passerà o no questa unione civile? Chi lo sa? Oggi Iena e il suo graffio sulla stampa, pagina 3, è questo: i cardinali dovrebbero occuparsi del figlio di Dio, che agli altri ci pensiamo noi. Così Iena sulla stampa. Pensate che la questione sia chiusa, ma invece no. Allora, vi segnalo una pagina di Giuliano Foschini, da Sibari, Calabria: l'odissea dei bulgari schiavi nei campi per 1 euro. Allora, lavorano dalla mattina alla sera senza mangiare, sono stati finalmente sgominati coloro che li sfruttavano, perché uno di questi ha avuto il coraggio di raccontare tutta la guardia di finanza e ha raccontato della schiavitù nel raccogliere le arance. Lavoravano dalla mattina alla sera senza mangiare a 1 euro all'ora. Per le nostre arance, eh? Pensateci, cari ascoltatori, mentre andate a lavorare. E intanto eccoci qui, Federico Rampini vince la carta costa su Repubblica per un articolo commento con tanto di foto del bagnetto di Zuckerberg, come minchia si chiama e si pronuncia, che fa tutte le foto di quando è diventato papà, ha perso la testa, fa le foto, le mette su Facebook mentre fa il bagnetto, mentre cambia il pannolino, mentre gli dà la pappa, mentre la tiene così, mentre la tiene cosà, mentre la veste, mentre la sveste, mentre la porta di qui, mentre la porta di là, e basta. Ma chi se ne frega!